headlights are on. Ora 21.08, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, inizia prove tecniche di trasmissione anche per oggi 31 ottobre del 2018. www.ondarossa.info è il sito della radio, utile anche per lo streaming. ondarossa@ondarossa.info invece il riferimento di posta elettronica. Per quanto riguarda questo spazio in maniera più specifica, c'è una pagina Facebook, prove tecniche di trasmissione /disorder, dove domani verrà pubblicato il podcast e le playlist, cosa che accadrà puntualmente anche sul sito della radio stessa. Il palinsesto prevede intorno alle 22.30, 25 o'clock. Si va a salutare Alessandra e Silvia qui da Roma. E noi invece si va subito ad iniziare con questo ultimo lavoro per i Romani Zoo, vera e propria istituzione nel campo della sperimentazione dell'industrial, ma soprattutto nel corso degli anni hanno sviluppato le loro tematiche in campo jazz core. Invece questo ultimo lavoro dal nome Jator, che prende spunto da un culto tibetano per quanto riguarda i morti, gli zoo si sono sviluppati in maniera abbastanza diversa, molto più rarefatti. Un album che si compone di due tracce. La scorsa settimana, anzi nelle due ultime settimane, ci siamo ascoltati Jator e Sky Burial, e questa sera invece ci ascoltiamo una parte della lunga The Dawning Mound of the Mind. Si chiama The Dawn in the Moon of the Mind, seconda traccia di questo Giator, ultimo album per i Romani Zoo, in realtà provenienti esattamente da Ostia. Massimo Pupillo e Luca Mai. Ma anche la batteria chiaramente di Thomas Jarmir, batterista proveniente dalla Norvegia. L'amico di sempre Stefano Piglia provvede anche a supportare attraverso il violoncello e la chitarra, e c'è anche una schiera di musicisti che si dedicano proprio al suono di diversi archi presenti in questo album. Un album dalle tinte particolari, c'è anche sottotraccia del jazz, del progressive, un album più dilatato e meno pregno dei ritmi ossessivi classici del jazz core, del math rock presenti negli album del passato degli Zoo. Intanto vorrei ricordare un'iniziativa che riguarda Radio Onda Rossa, che si terrà venerdì 9 novembre a Forte Prenestino. Verrà una delle più interessanti artiste della scena militante inglese dell'hip hop, si chiama Orasi, e avrà come supporto da Roma Serpe in Seno e Tokaref da Bari. Verrà presentata la nuova Scarceranda del 2019 e quindi tutto si terrà a Forte Prenestino al prezzo di 5 euro a sostegno naturalmente di Radio Onda Rossa. Ricordo Orasi, Forte Prenestino, 9 novembre. Lasciamo gli Zoo e ce ne andiamo in Libano. Il che vuol dire che sfruttiamo Lebanon Music Survey Anthology of Electroacoustic Lebanese Music, questo compendio ideato dall'amico Raffaele Pezzella in arte Sonologist, un CD che fa il sunto e che contiene in sé probabilmente il meglio che viene da questa scena emergente e misteriosa alle mie orecchie, che è la scena appunto del Libano. E questa sera ho scelto due artisti, il primo si chiama Stress Distress con Digetti e poi Yumna Sab con una traccia dal nome Nefas. Ed è incredibile come tutto ciò provenga da, sostanzialmente da Beirut, e sappiamo la realtà storica e politica che si è succeduta in tutti questi anni, in quel del Libano. Questo incrociarsi di cultura orientale e cultura occidentale che ha dato luce a tantissimi artisti, i quali per la maggior parte, o almeno molti, sono rappresentati in questa compilation, ricordo, ideata da Raffaele Pezzella attraverso la Nesplay Sounds label. Un altro artista è questo Yumna Saba. Yumna Saba, che è presente in un paio di tracce in questa compilation, questa si chiama Nafas. Anche questa sera la nostra capatina in Libano, attraverso questo Lebanon Music Survey, Anthology of Electroacoustic Lebanese Music. Titolo un po' pomposo, lungo, ma la cosa importante è che c'è della sostanza molto interessante in questo doppio CD, uno anche fisico e l'altro digitale, ideato da Raffaele Pezzella. Intanto salutiamo Fulvio Biondo di Solar Lodge, il che mi dà anche il là per ricordare un evento che può interessare a chi segue questi spazi musicali del mercoledì sera. A Roma venerdì 2 e sabato 3 novembre si terrà il Destination Morg, che è una storica kermesse industriale che si tiene ogni tanto qui a Roma, e questa è la decima ed ultima edizione, e che vedrà una serie di artisti, esattamente 8, o meglio, per l'esattezza domani ci sarà un opening party con Northgate e Chris X. Mentre venerdì ci sarà Mademoiselle Bisturi, Senketsu No Light Club, Dijin Far, storica riunione. Sabato invece Others, progetto milanese, Necrophonics, teatro satanico più N, Paolo Bandera di Sigillum S e Abattoir di Wurnus Island, e Malato insieme a No Light For Tomorrow. Insomma, dei nomi abbastanza noti per chi mastica un po' questa materia. Per chi fosse interessato, per quanto riguarda la location, ovviamente può andare sulle varie pagine dei vari portali o anche chiamare qui radio allo 0649 1750. Noi invece dal Libano andiamo in Polonia. Stiamo un po' conoscendo meglio questo artista dal nome Job Karma, 6 album al suo attivo, e abbiamo qui il quarto dal nome Strike. Un album, se non erro, del 2005, ma andrò a vedere meglio. Un album che si sviluppa e viaggia su tematiche molto vicine al neoclassicismo di scuola In The Nursery, con dei tratti martial molto laibachiani. I Watch You Drown e Audio Activity, le due tracce finali di questo Strike. the defeat of the signal. You will see red to kill us by cinemas.

E salutiamo anche Maria qui da Roma. E stando andando verso la fine questi Job Karma The Strike, il quarto lavoro del 2005 che uscì attraverso un'etichetta italiana, l'Ars Benevola Mater di Mauro Casagrande. Un album che si chiude con questa cover di Radioactivity, naturalmente dei Kraftwerk. Con il solito approccio neoclassico proprio di Job Karma. Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, queste prove tecniche di trasmissione anche questa sera fino alle 22.30 circa, e poi ci sarà 25 o'clock. Torniamo indietro ancora nel tempo, ce ne andiamo in Scandinavia e andiamo nella tradizione industrial noise della vecchia Cold Meat Industry. Uno dei gruppi che apparteneva a questa etichetta erano i Mental Destruction, un gruppo che ha sfornato tre lavori, ormai anche abbastanza vecchi, ma di tanto in tanto si fanno anche vedere, soprattutto in versione live. Salutiamo Fabiola. Salutiamo Fabiola e noi ci andiamo ad ascoltare per l'appunto due tracce da questo secondo lavoro, The Mental Destruction, questo Intensity or Darkness. Ci ascoltiamo Big Crush, The Silence.